Oh mio Dio, siete veramente pessimi. Ma un minimo di recitazione, non dico naturalistica, però credibile? Cioè, insomma, non dovete dirlo come se foste voi, dovete dirlo come se foste i personaggi. È questa la base del teatro, Dio santo. Oh, va bene. Vi do una cosa un po' più facile, un po' più quotidiana. In farmacia, di Carl Valentin. È un testo comico, molto semplice, di un uomo che va in farmacia a chiedere un medicinale. Sarete andati in farmacia in vita vostra, no? Quindi vi dovrebbe essere facile immedesimarvi. Dai, provateci. Ragazzi, Elisa è stata chiarissima, quindi mettetevi d'impegno perché già questa è veneta, abita a Milano, scende giù, uè pauscia, qui se non cominciamo andiamo tutti a Ramengo! E bisogna impegnarsi, via! Dai, impegniamoci di più! Oh, il farmacista lo fa te! No, no, senti, facciamo una cosa, siccome io fai il bottegaio tutti i giorni, il farmacista tu lo fa te, così almeno si guarda se mi riesce a rifare anche il cliente. Va bene, via, mi metterò a studiare anche per bottegaio, dai, andiamo. Si comincia, si comincia. Si comincia? Oh, stasera dove sei? Scusate, tu sei Valentino. Sono Valentini. Prendi uno sciroppo, forza, banda alle ciance, cominciamo! Buongiorno, signor farmacista. Buongiorno, signore, desidera? È difficile dirlo. Sarà una parola latina. No, no, è che proprio me lo sono scordato. Vedrà, ci arriveremo. Non ha la ricetta? No. E che cosa le occorre di preciso? Mi occorrerebbe la ricetta. No, beh, voglio dire, sta male? Come le saltano in mente certe idee? Ho l'aspetto di uno che sta male, io? No, volevo dire, se la medicina è per lei o se serve un'altra persona. Ah, no, no, è per il mio bambino. Ah, per il suo bambino. Allora è il suo bambino che è malato. E di cosa avrebbe bisogno? Avrebbe bisogno della madre. Ah, il bambino non ha la madre? Sì, ce l'ha, ma non è quella giusta. Ah, ha dunque una matrigna? Sì. Purtroppo la madre è più igna che giusta e perciò il bambino deve essersi preso il raffreddore. Ma tossisce il bambino? No, strilla e basta. E forse gli fa male da qualche parte? Può darsi, ma è difficile capire. Lui non dice dove gli fa male. Io e la matrigna facciamo quel che possiamo. Oggi ho detto al bambino, se dici da bravo dove ti fa male, ho un bel giorno... Un bel giorno ti regalerò un motorino. E lui? Non lo vuole dire, è talmente ostinato. Ma che età? 6 mesi. Beh, a 6 mesi un bambino non sa ancora parlare, in effetti. Questo no, ma potrebbe almeno indicare dove gli fa male. Se un bambino è già capace di strillare tutto, dovrebbe anche essere capace di indicare, no? Così si capirebbe dove è il focolaio della malattia. Ma per caso si mette sempre il dito in bocca? Esatto, proprio così. E allora vedrà che avrà presto i primi dentini. Li avrà, e da chi? Ma dalla natura. Ah, sì, sì, no, così. Dalla natura, può darsi. Ma allora non dovrebbe piangere. Perché quando sappiamo che avremo qualche cosa non piangiamo mica. Anzi, siamo contenti. No, no, le dico che il bambino è malato. E mia moglie mi ha detto, vai in farmacia e prendi un... Prendi una camomilla. No, non è una cosa da bere. Ma è che abbia i vermi? No, quelli si vedrebbero. No, ma no, dico dentro. Ah beh, dentro, lì non ci abbiamo ancora guardato. Caro signore, è proprio un guaio per un farmacista non riuscire a capire che cosa vuole il cliente, eh. Mia moglie mi ha detto che se non mi ricordavo più il nome dovevo portarle tanti saluti dal bambino. Anzi no, dalla moglie, e dirle che il bambino non riesce a dormire perché è sempre tanto inquieto. Inquieto? Allora prenda un calmante. Meglio di tutto forse sarebbe l'isopropyl barbiturile minoxidil. Come dice? isoprilopone oximorono mino pirolizzatone. Come è il nome? Isoprolimani piribarbituri oximoron edofnitrizzatone. Ma sì, era proprio questo. È così semplice, eppure uno non riesce a ricordarselo. Hai visto? Peggio anche di quello che mi ero immaginato. E vabbè, ma c'era l'omi proprio di pirizzatone. E poi io da bottegaio ho fatto il cliente, lui da cliente ha fatto il bottegaio e ci stava, dai, però adesso non si impara così. Piano piano, se ne accorgeranno anche i milanesi, siamo... Avranno un po' di cuore, Per noi villici, toscanacci, contadinacci. Oh, mia bella madunina, che te brilli de lontan.